Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola per un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena di oggi è quella di un cabarettista, attore, musicista e regista, ma soprattutto un comico italiano. È nato a Catania nel 1951. Da bambino la famiglia si trasferisce a Milano, poi a Verona. Inizia con il cabaret insieme agli amici Umberto Smaila, Nini Salerno, Gianandrea Gazzola e Spray Mallaby, con i quali forma il gruppo dei Gatti di Vicolo Miracoli, a cui presto si aggiunge Franco Oppini. La loro carriera passa per il Derby di Milano, per la televisione, con la partecipazione al programma Non Stop, per la regia di Enzo Trapani e per il cinema. Nel 1981 la nostra voce in scena lascia il gruppo per lanciare la propria carriera cinematografica. Da allora e per un decennio interpreta numerosi film comici di successo, cimentandosi anche in un ruolo drammatico nel grottesco Diario di un vizio di Marco Ferreri nel 1993. Arriva infine alla regia, autodirigendosi in 6 film. Nel 2015, attraverso una collaborazione con J-Ax, pubblica online il suo singolo rap Ocho, con il quale supera le 3 milioni di visualizzazioni. Nel 2016 pubblica la sua autobiografia Una vita da libidine. Lui è Jerry Calà. Andando indietro coi ricordi ed aprendo il cassetto della memoria, che poi da cassetto è diventato un cassettone, se non anche un armadione, perché secondo me poi non ci stava tutto in questo libro, ce ne sarà un altro, perché mi sono venuto avresti in mente... potuto fare un'enciclopedia. Sì, infatti ho martirizzato la Sperling perché non gli facevo mai chiudere il libro, dicevo no aspettate c'ho un altro capitolo, un'altra cosa, a un certo punto non mi hanno più risposto al telefono. È giusto. E sono usciti, hanno fatto bene. Sì, perché chiaramente io ho attraversato insomma un periodo molto importante, e lo dico anche nel libro. Era quel periodo, uso una frase di una vecchia trasmissione che diceva e voi potrete dire c'ero anch'io. Ecco, io c'ero quando ci sono stati dei grandi cambiamenti, no? Mio papà, per dire, ascoltava Claudio Villa e noi Elvis, Celentano e i Beatles. E poi il nuovo che arrivava, no? Hai capito? Dai capelli corti tagliati con la scodella alla lotta in casa per poter portare i capelli lunghi. Mia sorella, le battaglie per accorciare la gonna. Quindi la mia generazione ha vissuto proprio dei cambiamenti epocali. Però tu in questo libro parli, in realtà ti rivolgi ai ragazzi, non ti rivolgi né ai tuoi coetanei né a quelli più grandi. Io mi rivolgo ai ragazzi, sai perché? Perché i ragazzi, io li vedo anche quando vengono a vedere i miei spettacoli, dove io racconto in un'altra maniera, molto con la musica anche, racconto quel periodo. I ragazzi capiscono guardando i film, capiscono dai racconti che noi abbiamo vissuto un momento speciale e che loro se lo sono perso, hai capito? Loro si sono persi l'entusiasmo, per esempio, degli anni Ottanta, quando anche sbagliando, anche sparando cazzate, però i ragazzi avevano voglia di uscire di casa, vado a vivere da solo, hai capito? Invece oggi i ragazzi, non per colpa loro totalmente, però stanno in casa fino a 40 anni, quindi vedi come sono cambiate le cose. L'estate soprattutto la TV saccheggia il passato a mani basse. Quando tu rivedi quel ragazzino cosa pensi? Ma mi fa sorridere. Devo dire che non sono uno di quelli che dice io non mi posso vedere la televisione. No. Quando c'è un mio film spengo, giro. No, io invece se l'incrocio me li guardo, anche perché così approfitto e faccio vedere a mio figlio. Dice guarda com'era scemo il papà. E lui cosa dice? Ormai lui è grande, però lui è grande. Lui è grande e fin da piccolo qualcosina gli ho fatto vedere. Non tutto, ma qualcosina gli ho fatto vedere. non capiva bene, però adesso invece mi capisce bene, perché da quando sono diventato anche rapper grazie a J-Ax, che mi ha fatto sfondare la rete con 3 milioni di visualizzazioni del video Occio, proprio da rapperone americano, adesso sono veramente il mito di mio figlio, perché sono amico dei suoi idoli. E non è poco, non è poco fare il ponte tra le generazioni. Per cui questi film addirittura... ecco, una cosa mi fa piacere, perché ci sono dei bambini che adesso, per dire, vedono Sapore di mare e si divertono e mi riconoscono. Quindi vuol dire che, insomma, che sono ancora, dopo 30 anni, sono ancora riconoscibile, mi fa molto piacere. Di Sapore di mare, immagini, scene, gag e non solo, che sono entrate nell'immaginario come i tuoi tormentoni. Allora, io sono una bambina tra gli anni 70 e gli anni 80 e quindi... Sei stata contagiata. Sono stata ampiamente contagiata, perché Capitto a scuola lo dicevamo tutti. Esatto, ho rovinato una generazione. Hai rovinato anche più di una generazione. Mi ricordo, perché i professori, qualche professore quando mi incontrava, dice: ma tu me li rovini, perché io non posso più dire, ma avete capito, che tutta la classe fa Capitto, proprio mi odiavano i professori. Certo. Ma come nascevano? Ma nascevano abbastanza spontaneamente. Io sono sempre stato un grande osservatore, sia della gente per strada e sia anche in televisione. Mi piaceva cogliere delle cose che secondo me poi potevano essere, diciamo, ridicolizzate. Per esempio, quando ho inventato uno dei primi tormentoni, che era, non so se ti ricordi, Prova, che poi è diventata... Sai che me l'ero dimenticato, poi rileggendo il libro, sì, mi è tornato alla mente. Poi è diventata anche una canzone con i Gatti, certo, prova, certo, a dare un calcio alla moviola, crolla di colpo il mondo dello sport. Pensa a noi già... Eh sì, perché allora, il mondo... Ma non è cambiato niente, ancora sì. La moviola in campo non c'è, ma ti rendi conto? Sono passati un po' di anni, eppure sono ancora attuali. Ecco, per esempio, quella lì, quella parolina lì mi è stata suggerita da una pubblicità televisiva della Nordica, che era un sapone, una cosa, uno shampoo così, dove c'era uno svedese con una bicicletta che diceva: avete mai provato la freschezza della primavera in Scandinavia? Allora io ci ho messo dentro prova e la gente l'ha preso. E poi i tormentoni erano frutto di sperimentazione, cioè, perché noi lavoravamo tantissimo, come anch'io faccio, sono ritornato a fare ultimamente, sul pubblico, per cui avevi modo di sperimentare, no? Ogni sera dici: vediamo se questa cosa funziona, quindi capivi se una cosa poteva o no andare. Prova a dare un calcio alla moviola, crolla di colpo il mondo dello sport, prova a stare in piedi per un mese dentro una tettina canadese. Scratu, scratu, scratu. Poi c'era anche il fatto che un tempo si poteva lavorare molto su un progetto, studiare, vedere cosa funzionava. Adesso è tutto cotto e mangiato. Ma adesso, sai, adesso c'è un processo inverso, cioè i comici vengono creati in televisione e partono da lì, mentre noi invece in televisione ci arrivavamo, quindi arrivavamo con un bagaglio di esperienza dove su Per Giù sapevamo già quello che funzionava sul pubblico. Tanta allegria, tante risate che ci hai regalato e continui a regalarci perché tu lavori ancora tantissimo, però c'è anche sempre quel retrogusto di malinconia che ti ha sempre accompagnato e che sei riuscito anche a portare al cinema. Sì, in qualche film sono riuscito, cominciando dal primo film in cui ho capito che potevo recitare anche qualcos'altro, è avvenuto e lo racconto proprio sul finale di Sapore di Mare, quando appunto io non riconosco quel grandissimo finale con Marina Suma, e c'è quel carrello sul mio sguardo che Carlo Vanzina ha non dico copiato, si è ispirato a Sergio Leone, dove si fa, adesso dico una cosa tecnica, si fa zoom avanti e carrello indietro. Quando l'ho letto, poi sono andata su YouTube a vedere la scena e ho capito qual è l'effetto. Hai capito? Che si... questo effetto stranissimo con quello. E quando ho fatto quello sguardo, quando è finita la scena, il direttore della fotografia è venuto da me a dirmi: Jerry, guarda che hai fatto una cosa veramente bella, se fossi in te io ci penserei, mi ha detto. E ci hai pensato, ci ha pensato Ferreri, ci hanno esatto. Pensato. Poi qualcuno ci ha pensato. Adesso l'Italia si può ancora raccontare, perché tu hai raccontato tanto dell'Italia dai tempi dei Gatti in poi. Si può ancora raccontare il giorno d'oggi o è meglio ricordare, secondo te? Ma no, secondo me si potrebbe ancora ricordare, infatti... Diciamo, la direzione della commedia dovrebbe sempre andare in quel senso, almeno la tradizione della nostra commedia italiana è sempre stata quella di raccontare il presente, di raccontare vizi e virtù dell'italiano medio. E io con leggerezza ho cercato sempre di portarla avanti questa tradizione, da, appunto, come citavo prima, Vado a vivere da solo, che era un fenomeno di quel momento dove tutti i ragazzi volevano affrancarsi dalla famiglia, però dicendogli: i soldi me li date voi. Certo, però... però volevano stare per i fatti loro. E come, non so, il ragazzo del Pony Express, per esempio, io racconto, il ragazzo del Pony Express è nato dal fatto che io una mattina ho ricevuto un plico, mi si è presentato questo marziano col casco, con la pettorina con scritto Pony Express, e dico: ma tu chi sei? L'ho fatto entrare in casa, gli ho offerto un caffè e mi ha spiegato che con la vespetta, appunto, lui era laureato, però insomma in attesa di migliori occasioni faceva il Pony Express. Io l'ho preso, siamo andati da Rino Petrosino nel suo studio il a Roma, sì. Fotografo, grande fotografo Rino Petrosino, e abbiamo, io l'ho spogliato, mi sono fatto prestare la roba, abbiamo fatto la foto, poi sono andato da Claudio Bonivento, che allora era il mio produttore, e senza aver scritto una riga abbiamo presentato a ottobre Jerry Calà sarà il ragazzo. Avete venduto un film che ancora era in testa, niente. Fantastico. 2016, 20 anni di successo delle tue serate alla Capannina, e poi tu concludi il libro dicendo: ve ne sto preparando alcune che proprio non vi aspettate, occhio a darmi del vecchio. Quindi hai ancora voglia di fare un sacco di cose? Beh sì, come hai visto, insomma, questa, cioè, io non mi tiro mai indietro, a volte anche sbagliando, però insomma mi piace... A me piace dire di sì, e quindi insomma sono aperto sempre a nuove esperienze, sono a disposizione del futuro. Ed è tutto per l'appuntamento di oggi con Voci in Scena. Insieme a noi c'era Jerry Calà. Ancora un saluto da Marta Cagnola.